ha vinto un oro agli europei in Russia, e quindi credo che poi alla fine per lei questo film in qualche modo l'abbia anche aiutata, ecco, a livello proprio personale. Che tipo di distribuzione sarà? Il film è prodotto da Indica, che è una produzione di Torino, con Rai Cinema e con vari fondi regionali, Toscana, Piemonte, Campania, e è distribuito dall'Istituto Luce. E allora la distribuzione appunto partirà il 4 aprile, ci sarà un'anteprima a Roma il 3, però diciamo dal 4. Quello stiamo cercando, spesso quando escono i documentari si fanno queste, diciamo, proiezioni evento, quindi si proietta il film una volta in una città e finisce lì. Noi abbiamo, grazie all'aiuto poi di alcuni cinema che ci stanno ospitando, abbiamo cercato di avere una distribuzione leggermente più lunga, per cui dovrebbero essere, poi dipende dalle città, ma in generale ci saranno tipo 2 giorni di programmazione, poi la settimana dopo altri 2 giorni, questo anche per dare modo a un passaparola di svilupparsi, per cui a Roma saremo ospiti al Cinema Aquila e appunto ci sarà la prima, che sarà il 3, però poi entra in programmazione dal 4, il 5, il 6 e poi verrà ripreso la settimana successiva, e così ci stiamo muovendo insomma un po' nelle principali città italiane, per cui Napoli, Milano, Bologna, Firenze, Torino. Per un documentario non è poco, ecco. Sì. E allora ricordiamo l'uscita in sala del documentario Butterfly al cinema da giovedì 4 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Alessandro Cassigoli. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a voi e un saluto a tutti. Con Roberto Cuzzillo, regista del film I nostri giorni, che sarà presentato in anteprima nazionale all'Aquila giovedì 4 aprile 2019. Roberto, ben trovato. Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno. Ti descrivi questo lavoro? Ho girato questo film nel 2012, dopo aver ricevuto un invito all'Aquila. E da questa mia esperienza è nato questo film, girato un po' a singhiozzi, proprio un po' perché abbiamo avuto un po' di difficoltà anche nel girarlo. Quindi nasce un po' anche dalla voglia di raccontare un po' quello che ho trovato, insomma, all'Aquila quando sono andato lì, pensando di trovarmi una città in via di ricostruzione. Invece ho trovato praticamente macerie e un po' di isolazione, ecco. Quindi poi anche attraverso, insomma, delle chiacchiere, insomma, fatte anche con delle persone che vivono lì, è venuta fuori una forte empatia che mi ha spinto proprio a raccontare una storia che comunque è una storia di finzione, ma che racconta un po' quello che può avvenire quando si vive un dramma come questo del terremoto, dove appunto tutti i punti di riferimento vanno a perdersi, quindi se si cerca, insomma, di voler reiniziare, a ricominciare, ecco. Cosa ti ha impressionato di più di questa esperienza aquilana? Sicuramente la forte voglia di appartenenza, la forte senso di identità delle persone che hanno deciso di rimanere all'Aquila, e questa è stata, insomma, la forte voglia di raccontare una storia, che è una storia comunque introspettiva, se vogliamo, ecco. Quindi il terremoto dell'Aquila un po' fa da sfondo, perché poi in realtà sono quelle crepe che si creano al fondo dell'anima quando vive un dramma del genere. Ecco, il film su cosa hai voluto centrarlo? Sulla voglia sicuramente di avere una seconda opportunità, di rivalsa, insomma, un po' di quello che è successo, quindi cercare, insomma, che in questo caso si parla del terremoto, ma potrebbe essere una malattia, potrebbe essere qualsiasi avvenimento che purtroppo può capitare a chiunque. E quindi ho voluto un po' anche parlare di quel lato di persone che vogliono reagire per ritornare per riavere in mano la propria vita, ecco. Una cosa anche che un po' mi ha anche incuriosito in tutti questi anni, perché poi più volte sono andato, io sono di Torino, quindi non ho vissuto il terremoto, quindi ci sono entrato un po' a punta di piedi, ecco, attraverso un punto incontri, sono andato là un po' di volte. E mi ha anche un po' incuriosito di come, facendo una piccola analisi anche di comunità, di come persone

un problema proprio di immondizia, un problema sì. proprio di recupero di cose che rimarrebbero se no in questo contesto naturale. Mm-hmm. E anche quello è uno sfregio alla natura, allo stile della, di chi va in montagna e che vede nella montagna anche qualcosa che va oltre la semplice, insomma, semplice mica tanto, però va oltre la scalata, ed è anche quello un documentario che ci apre gli occhi su come il business, anche sotto questo aspetto qua, a volte diventi invasivo di realtà e vada proprio a cambiare geneticamente un modo di stare al mondo e di affrontare la natura. Mm-hmm. Dicevi dell'ingresso gratuito? Sì, fino ai 25 anni nessuno paga, questo per intercettare proprio quel popolo che finalmente è sceso in piazza e si è fatto sentire un po' in tutto il mondo. Ed è un popolo bello, un popolo di ragazzi, di studenti che vanno ascoltati, vanno aiutati, e questo è il nostro aiuto che proviamo a dare. Ci lasci in chiusura tutti i riferimenti per la programmazione? Basta andare sul sito di Cineteca Milano, www.cineteca Milano, lì si sceglie una delle sale della programmazione, viene fatta al museo, quindi la sala di proiezione del MIC, del Museo Interattivo del Cinema, e poi si aprono i calendari, le schede, le fotografie, per cui poi si trovano tutte con grande facilità un po' tutte le informazioni. Allora, ricordiamo la rassegna Cinema is the Future, con 5 documentari sull'ambiente, a Milano, al Museo Interattivo del Cinema, dal 7 al 28 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Matteo Pavesi della Fondazione Cineteca Italiana. Ci sentiamo presto, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao. Va bene, ciao. Con Giovanna Tanzarella di 12 Entertainment, che lo distribuisce, parliamo del documentario Bauhaus Spirit, 100 anni di Bauhaus, al cinema da martedì 9 aprile 2019. Giovanna, ben trovata. Ciao Federico. Ciao, buona giornata. Allora, raccontiamolo brevemente. Allora, è il documentario che celebra i 100 anni della scuola Bauhaus, 1919 la fondazione, e quindi quest'anno appunto è il centenario, siamo al cinema il 9 e 10, racconta esattamente quella che è stata la fondazione della scuola e il progressivo sviluppo, gli artisti e i maestri che hanno presieduto insomma la scuola da Kandinsky a Polkli, fino ad arrivare al suo blocco e alla chiusura per conto del regime nazista. La scuola era molto avanti, con mentalità troppo aperta e troppo progressista, e quindi c'è stata poi la chiusura durante il regime. Adesso a 100 anni sono fatto questo documentario, molto bello secondo me, siamo in evento per questi 2 giorni e insomma questo è. Allora, una delle caratteristiche che all'inizio del documentario viene fuori in maniera anche molto spettacolare è la multidisciplinarietà di questa scuola. Sì, in realtà non è stato solo architettura, ma è stato stile, design, teatro, musica, un po' tutto. In realtà quello che è stato Bauhaus si ritrova tutt'oggi nello stile e nel design dei nostri mobili, dei nostri accessori, le poltrone, le lampade Bauhaus sono ancora adesso stramoderne e strautilizzate nel nostro arredamento, anche a nostra insaputa, però in realtà provengono tutte da lì. Ancora uno stile veramente attuale, e nel documentario si vede proprio questo, come questo stile abbia influenzato tantissime aree, e appunto poi c'è una bella parte dedicata al teatro, i colori, l'accostamento, insomma è un percorso lungo di questa scuola e molto ampio. Uno dei suoi obiettivi principali era non abbellire il mondo ma trasformarlo. Sì, colorarlo, darne una visione diversa, non schematica assolutamente, e appunto, come ti dicevo, pieno di colori, pieno anche di forme diverse, architetture anche nuove, con stili che sono ancora adesso intramontabili. Quindi vedendo il documentario si scopre quanto tutto ciò che è accaduto un secolo fa e in successione sia ancora veramente presente. È stata una scuola innovativa già al tempo, ma che lo è tuttora in realtà. E poi in realtà ci sono scuole che ancora, insomma, hanno questo stile in atto e che insegnano lo stile Bauhaus, quindi non è uno stile morto in realtà. Infatti uno dei suoi modelli è quello dell'inclusione sociale, c'è l'esempio di una favela in Sud America in cui, riuscendo a creare uno spazio sociale e anche per lo sport, i reati sono calati vertiginosamente. Sì, sì, è proprio una palestra nelle favelas colombiane. Ci sono utilizzati spazi e materiali non utilizzati per creare uno spazio appunto che desse una possibilità di inclusione, assolutamente così. Dove avete incontrato questo documentario? Guarda, in realtà l'ho cercato, ne prendo la responsabilità, nel senso che conosco bene la scuola, ho cercato un prodotto sapendo che era il centenario, e proprio facendo una ricerca pura mi ci sono imbattuta, te lo dico proprio come è accaduto, quindi non ad un mercato ma proprio ad una ricerca del prodotto. Cosa ti ha convinto? Ma mi ha convinto perché secondo me il documentario è molto bello, dà una visione abbastanza globale di quello che è lo stile, non annoia, e poi probabilmente dice qualcosa di molto attuale, no? Di come quando si ha una mentalità così aperta si tende poi a volerla chiudere, no? A volerla fermare, ma nonostante questo non si riesce a farlo, infatti lo stile è ancora molto presente. Allora, dicevi di una distribuzione di 2 giorni, in quante sale? Sì. Non tantissime, saremo in 25-30 sale al massimo, poi sulla nostra pagina Facebook pubblicheremo tra oggi e domani tutto l'elenco delle sale. Benissimo, e allora ricordiamo l'uscita del documentario Bauhaus Spirit, 100 anni di Bauhaus, documentario tedesco del 2018, un saluto e un ringraziamento a Giovanna Tanzarella di 12 Entertainment che lo distribuisce. Giovanna, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Anche a te, grazie mille, Federico, a presto, ciao ciao. Ciao. Con Sergio Visinoni di Lab 80 Film, che collabora all'Integrazione Film Festival a Bergamo e Sarnico dal 10 al 14 aprile 2019. Sergio, ben trovato. Grazie, grazie a tutti, buongiorno. Ci racconti? Siamo stati felicemente coinvolti all'organizzazione di questo festival, che ha una storia lunga, è la 13ª edizione questa. Nasce come un evento locale, piccolo, a Sarnico, ma già con ambizioni importanti e con un obiettivo soprattutto molto chiaro, è quello di provare ad andare contro un certo tipo di immaginario che forse oggi è ancora più forte di allora riguardo alla questione dell'immigrazione, ma non solo, e quindi usare, se si può dire così, il cinema e l'arte per divulgare anche delle idee diverse, possibili, ma anche reali, perché frequentiamo anche il film documentario che ci racconta una realtà molto, molto diversa da quello che spesso si sente, si viene raccontata dai mass media. E quindi appunto nasce con un altro nome, si chiamava C'è un tempo per l'integrazione, e da quest'anno si chiama Integrazione Film Festival, perché ha anche ambizione di continuare a crescere e diventare un festival cinematografico a tutti gli effetti. Già lo è. Quest'anno abbiamo 10 corti di finzione in concorso e 5 documentari, più un film di apertura che anche questo corto di finzione, che è stato vincitore del bando Migrarti l'anno scorso. Avremo anche diversi ospiti, registi, attori, insomma un programma piuttosto ricco.